La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, ascoltatore Radio 24, con un ritardo record, record oggi, 37 minuti dopo le 16, record assoluto, ormai hop hop, tra un po' vi saluto e la trasmissione chiude, ma comunque vi dico subito il tema del giorno per chiedervi di telefonare e dirci la vostra al 800 24 00 24, o anche le vostre opinioni al 349 238 6666, ma tanto li conoscete i numeri di questa radio, grazie a chi continua a scaricarci anche sentendoci in podcast, perché non può in diretta. Il tema del giorno è questo. Sì, lo so, voi magari dite adesso vi occupate del ma sarà l'ere, Renzi, Letta, no, perché tanto non ci si capisce niente, lasciamo la politica, andiamo a uno dei delle proposte ricorrenti di coloro che dicono bisogna ricavare le risorse dalla lotta all'evasione fiscale, e riemerge puntualmente di tanto in tanto, facendo esempi di paesi stranieri che hanno seguito questa strada, l'idea di intensificare la lotta all'evasione utilizzando una lotteria. Il Portogallo ha appena adottato questa strada, è una strada che negli anni 90 ha avuto successo a Taiwan, l'ha adottata anche il governo di Bratislava alla fine dell'anno scorso. L'idea è semplice, anche se si organizza poi in maniera diversa, collegata all'emissione di scontrini fiscali, in un caso anche scontrini e fatture fiscali, c'è il diritto per una cifra, una formula stampigliata su questi scontrini e su questi documenti, quindi di regolarità fiscale, si conquista il diritto a partecipare a un'estrazione, a una lotteria. In Portogallo mettono in palio 80 automobili di elevata cilindrata, per così dire, cioè delle berline di classifica medio-alta. Erano premi in denaro quelli di Formosa, premi in denaro di una taglia molto piccola per dare quindi la possibilità di elevare il rateo ovviamente di vincita con le automobili, è un rateo molto molto basso, quindi secondo me non è un incentivo molto elevato. Però l'idea è questa qui, e io vorrei sapere se vi convince. Tenete conto che questa idea ha nel tempo mietuto in Italia sostenitori delle più diverse parti politiche. Anni fa, quando era il governo alla destra, era un leghista Bitonci a proporlo in una legge finanziaria, e Tremonti disse no. Nell'ultima legge di stabilità, qualche settimana fa in realtà, un parlamentare del Movimento 5 Stelle, Di Grillo, ha proposto una cosa del tutto analoga e uguale, e anche in questo caso il Ministero ha detto di no. Però sulla stampa, su internet, questa proposta torna e ritorna dicendo ma perché non fare qualcosa di simile? Io ve lo dirò alla fine come la penso, poi adesso vi presento un ospite, ma visto che siamo in tema fiscale, fatemi dire a chi oggi vorremmo dedicarla questa trasmissione. Ecco, abbasso un po' il tono di voce, perché anche oggi si è uccisa una persona in Italia per il fisco. Era un artigiano di un paese in provincia di Ferrara che si chiama Porotto. Era un artigiano di 48, quasi 49 anni, e P, dico solo le iniziali, e si è tolto la vita perché dopo che nella crisi la sua attività di artigiano era andata incontro a difficoltà sempre crescenti, gli è arrivata una cartella esattoriale di 80.000 euro. Di fronte a questo, il più, da quello che risulta dai primi accertamenti, lo aveva versato tramite il professionista che si occupava dei suoi conti, anche se non che invece pare proprio che non fosse stato versato. E in questa certezza, di fronte alla cartella che gli arriva, dopo aver detto che non si sentiva molto bene ai suoi familiari, E.P., rimasto solo a casa, ha preso un fucile regolarmente dichiarato da caccia, si è tirato un colpo in testa e si è ucciso. Ecco, ai tanti come E.P., ai loro familiari, a tutti coloro che non vedono questo popolo di gente che scompare uccidendosi giorno dopo giorno, e non sto strumentalizzando, mi sembra semplicemente giusto ricordarli. E ricordare ai loro cari, a chi li conosceva, ai loro amici, che c'è però chi nota ogni giorno queste cose, e c'è chi pensa che sia intollerabile considerarla delle cose normali, come tutta gente fuori di testa che si sarebbe uccisa comunque. No, in questi anni noi dobbiamo continuare a tenere aperti gli occhi e le orecchie, e il cuore, se permettete, per misurare la distanza siderale che di fronte a milioni di italiani, a come se la passano, ha avuto la capacità di risposta della macchina pubblica, anche se abbiamo riconosciuto da questi microfoni che la macchina pubblica ha tentato di essere più proclive con le rateizzazioni e così via. Però casi di questo genere, di fronte alla durezza della crisi, poi avvengono. scusate questa dedica che mi sembrava giusta, e l'ospite di oggi a cui far dire invece come la pensa lui di questa e di tante altre modalità per intensificare la lotta all'evasione è con noi un sempreverde cavallo di battaglia, il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi. Buon pomeriggio e grazie Giuseppe di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie a te Oscar per l'invito. Allora, come la pensi tu su ste lotterie? Io penso intanto una cosa, c'è una cosa da chiarire, questo ha un senso, può avere senso in paesi dove introducono le tasse sui consumi che prima non c'erano, l'IVA. Attenzione, questi sono paesi molto arretrati dal punto di vista fiscale, quasi sempre, sono paesi, ripeto, dove si introduce questo, viene fatto perché non viene conosciuta questa tassa sui consumi, l'IVA, eccetera, in questi paesi, e per incentivare il pagamento fanno questo. Ma ripeto, sono paesi molto arretrati dal punto di vista fiscale, dove la tassazione è molto, molto, molto, molto più bassa che in Italia. Lo considero un palliativo, non considero una cosa seria. Questo è per dare fumo negli occhi, anche se degli studi dicono che per esempio a Taiwan alcuni effetti li ha dati. La tassazione sui consumi è cresciuta di un 17%. Che non è poco, E il recupero, ma questo non è mica un dato positivo. Bravo, la tassazione bravo. È cresciuta. E hanno recuperato un 10%. Allora, però ripeto, se tu lo vuoi applicare a un paese civile, per quanto l'Italia possa essere discutibile come civiltà fiscale, ma se tu lo applichi a un paese come la Francia, l'Inghilterra, io credo che una cosa del genere sia risibile, faccia ridere. In effetti l'evasione è sempre un problema serio, ma io userei un'altra ricetta. Sentiamo. Vedi, anche dove hanno provato quel contrasto di interessi, ti ricordo. Ricordiamoci il libro che hai scritto per smentire quest'altra cosa ricorrente, il mito che tutti in America hanno il contrasto di interessi, possono defalcare tutto. Non è vero, a chi siete in ascolto, e se volete approfondirlo, Bortolussi ha scritto proprio un libro dedicato a questo. Com'è il titolo del libro? Il libro è Evasori d'Italia, proprio sconfiggere certi luoghi comuni. E allora vedi, lì ci hanno provato Bolivia, Grecia, Turchia e Cipro Nord. A Cipro Nord è successo che addirittura si compravano gli scontrini dagli studenti, li raccoglievano per terra e i più abbienti alla fine non pagavano tasse perché giustificavano che spendevano tutto. Non solo, ma poi l'hanno dovuta togliere perché... perché tra l'altro si era creata una situazione in tutti questi paesi dove aumentava la burocrazia e il costo della stessa, ma soprattutto aumentava l'evasione, perché quelli che prima non conoscevano le cartiere, cioè la stampa di fatture, di ricevute false, finalmente la scoprivano, e quindi era controproducente. Anche su questo ci sono studi che dicono che è così, ma la grande distinzione che io farei, Oscar, è tra paesi civili, tra virgolette, fiscalmente o evoluti fiscalmente, paesi no. In certi paesi può anche come espediente andare bene questo, non va bene per paesi dove la pressione tributaria, insisto sul tributaria perché vogliono sempre fare confusione parlando di pressione fiscale. A me interessa quella tributaria perché è quella che attiene il criterio del sacrificio. Io pago le imposte, le tasse, le pago perché ho dei beni comuni come la scuola, la sanità, la giustizia, e quindi io vado alla pressione fiscale, imposte, tasse e tributi. Bene, in Italia è il 30,2-30,3%, in Germania è il 23,5%, per capirci. In Cina, dove hanno fatto, dopo Taiwan l'ha fatto anche la Cina, certo, credo che la pressione fiscale sia molto molto bassa, è un paese ancora agricolo, per certi versi tolta la costa, che è come era l'Italia prima della Seconda Guerra Mondiale, parlo dal punto di vista fiscale, sì, o appena certo, dopo la seconda. Quindi quella è la grande distinzione, ma io credo che ci sia una ricetta più importante. Aspetta, ti interrompo e dopo i 60 secondi del traffico, l'informazione stradale ce la dai. La la versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta a 16:47. Primi, alcuni ascoltatori hanno detto no, ma guardate che in Portogallo, certo che l'IVA è conosciuta, è chiaro che l'IVA è conosciuta, l'IVA è un'imposta europea, però Tina ci dice l'evasione non è elevata, cioè dice non è maggiore in Italia. Il governo ritiene di perdere più del 35% del gettito dell'IVA in Portogallo. Tenete conto, chi volesse approfondire trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate un rapporto annuale che viene dettagliatamente di anno in anno aggiornato con la stima regionale anche su base provinciale o sovraprovinciale della perdita di gettito. Abbiamo alcune parti d'Italia dove la stima della perdita di gettito dell'IVA è superiore al 40%. Immaginate dov'è, ma insomma, se immaginate dov'è, purtroppo con un criterio geografico non vi sbagliate troppo. E da quelle parti lo Stato ha sempre risposto a chi faceva notare: ma perché lì non mettere cose aggiuntive in più? La risposta è un po' sì, però lì è anche un problema, per così dire, sociale, per così dire, rispetto agli andamenti di un reddito pro capite che è infinitamente più basso rispetto alla media nazionale e alla parte privata del paese. Io non la penso così, ma vi rispondo a un'ascoltatrice che diceva in Portogallo non c'è elevata evasione. Allora, ci stavo dicendo Giuseppe Bortolussi, la strada è un'altra, a suo giudizio. Guardi, la strada per me è un'altra, è quella intanto di capire le cose. Se la pressione tributaria in Svizzera è il 20-21% e quella fiscale complessiva in Giappone il 28, negli USA il 28, da noi è il 44 quella tributaria, cioè che praticamente ci sia una tassazione più equa. Ecco. Dico ma più equa perché, ripeto, tra il 30,2 e il 30,3 e il 23 del Portogallo c'è una bella differenza. Altro che. C'è una bella differenza. E allora bisogna tenere conto. Bene, intanto primo bisogna prevedere di restituire quanto recuperato dall'evasione ai cittadini. Bravo. Cosa che oggi non è. Mai avvenuto. Oggi c'è un fondo ma non funziona. Oggi hanno attribuito ai comuni il 100% del gettito dal recupero di evasione. Vuol dire che non torna niente ai cittadini onesti. Esatto. Che pagano in realtà, attenzione, il 54-55%, esatto. Perché se io tolgo l'economia sommersa, quanto paga esattamente il contribuente onesto? Il 54-55. Poi l'altra cosa è buoni servizi. Io pago non a una divinità, io pago allo Stato, io pago perché c'è un patto sociale, io ti do i soldi guadagnati con fatica, tu mi dai dei servizi comuni che funzionano, la giustizia, i trasporti, cosa che in Italia non è. E vedi, questo è il problema dell'equità, del considerare giusto quello che pago corrispondente a quello che mi dai, è la cosa che fa pagare volentieri le tasse. Se non c'è questo, non le paghi volentieri. E poi in Italia sono troppo alte anche non solo in relazione ai servizi, in assoluto, che ne dica qualcuno. Se io mi confronto col 27,9, parlo sempre di pressione tributaria della Francia, che però è il quoziente familiare, famiglia con 30.000 euro di reddito, due moglie e due figli a carico, 314 euro di tasse in Francia, 5.000 euro in Italia. Ma scusate. No, ripeti questa cosa, perché questo è il motivo per il quale la curva demografica italiana è sotto le scatole, per come l'ordinamento fiscale è diventato un nemico numero uno per fare figli, perché non ce lo possiamo permettere. Certamente. Ridì questa cifra che è pazzesca nella differenza. Famiglia francese che ha una moglie e due figli a carico, 30.000 euro di reddito, in Francia pagano 314 euro, non mi sbaglio, 314. In Italia, se la famiglia è monoreddito, paga circa 5.000 euro, se è bireddito 2.008, come se fosse colpa della famiglia se certo. Uno non trova lavoro, anche questa è un'ingiustizia tutta italiana. Questa sola differenza ti dice che cosa. Poi i giovani francesi hanno reddito minimo garantito, che sono sui 450 euro, ne sai qualcosa tu in Italia? Esatto. Allora io dico, vedi, in Francia questi pagano meno tasse, 27,9 imposte, tasse, tributi, noi 30,2 e abbiamo che cosa? Noi invece non abbiamo né il quoziente familiare né il reddito minimo. Bravissimo, per quello che mi riguarda, questo è il ministro che vorrei io, capite? Il problema è fare un paragone rispetto non solo le aliquote più basse, ma in cambio di che cosa? Intanto gli altri ce l'hanno più basse e quelli che ce l'hanno comunque non troppo più basse, ma un po' più basse di noi, come la Francia, in cambio hanno cose che noi ci sogniamo. Fino a che non sarà così, ragazzi, quando lo Stato vi dice che è colpa solo, è colpa, certo che è una colpa chi non paga le tasse, ma che è colpa solo chi non paga dalle tasse, che noi non paghiamo così tante, vi sta mentendo fino a che non vedrete un euro restituito a chi le tasse le paga. Del gettito ogni anno dichiarato, recuperato dall'evasione, vorrà dire che lo Stato mente. Questa è la mia opinione, magari sono un po' più brutale e Bortolussi nel dirla, ma la penso allo stesso modo. Vorrei uno come lui che diventa ministro e che fa queste cose. Sentiamo rapidamente alcuni ascoltatori. Carlo da Milano, prego Carlo. Sì, buongiorno Giannino, innanzitutto è un piacere risentirla, ascoltavo sempre il mattino, per me gli danno comunque da poco spazio. Andiamo al punto. Ascolti una cosa, niente, per me ci sono tre step da fare. Sì. Uno, defiscalizzazione totale per tutti, una bella dichiarazione dei redditi, si allegano tutti gli scontrini, recuperare anche poco, anche il 10%, il 5%, però tutti una defiscalizzazione per ogni spesa. E questo è solo il primo step, gli altri due più rapidi. Allora, gli altri due più rapidi, uno, utilizzo di carte di credito e di bancomat. Tracciabilità. Abbassando anche i costi di gestione di tutto e sparisce il contanto e tutto è tracciato. Mm. Si recuperano i miliardi che ci sono in giro e si abbassano le tasse delle imprese per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli e che questo pagano è il terzo. Le tasse. Carlo, guarda che noi abbiamo una soglia di tracciabilità, poi tutti la vogliono abbassare, chi ha poche centinaia di euro, però la maggior parte degli altri paesi europei la soglia di tracciabilità come ce l'abbiamo noi non c'è. Questo è anche perché gli anziani, chi non ha i conti e così via, un onere c'è. Io non voglio dire no assolutamente, però questo fatto della tracciabilità, capisco chi ci guadagna, ovviamente intermediari, per alcuni milioni di italiani, una popolazione anziana non digitalizzata, non proprio così familiare con queste cose, è un problema, io non me lo dimenticherei. Sentiamo Fabio che ci chiama dalla Slovacchia, ho letto bene? Fabio, prego. Esatto, la Slovacchia. Beh, lì c'è una pressione fiscale, per così dire, abbastanza più bassa, però anche lì hanno problemi di evasione e lotta all'evasione. Sì, abbastanza, perché a parte che la struttura economica della Slovacchia è molto diversa da quella dell'Italia, però bisogna dire che stanno evitando di fare certi errori che invece da noi ormai sono irreparabili. E comunque con questo discorso della lotteria hanno fatto venire alla luce appunto quel residuo di economia sommersa. Quindi lì funziona, Fabio, funziona. Funziona, in Slovacchia funziona, tant'è vero che dalle ultime stime dell'Istat slovacco risulta che le entrate fiscali in Slovacchia a seguito di questo accorgimento probabilmente stanno migliorate. Aumentando. Senti, posso chiederti, tu sei andato trasferendo un'impresa o ci sei andato per il lavoro che fai o per altre ragioni in Slovacchia? Sono per lavoro già da 23 anni tanto. E diverse attività, quindi ho visto proprio nascere la Repubblica Slovacca e diciamo che appunto sono abbastanza... E non presente. Sei sicuramente pentito da quello che capisco. Allora, noi abbiamo pochissimi secondi. Maurizio da Milano, te la senti in 10 secondi, Maurizio? Maurizio? Sì, pronto. Sì, rapidissimo, pronto. Rapidissimo. La vuoi la Buonasera, lotteria? Buonasera, Giannino. Sì. Volevo semplicemente dire che se non la finiamo con le società di capitali che sono aperte 2 anni, che mettono tutti gli scontrini e le fatture che vuoi, ma dopo non vanno a recuperarle perché le mettono in liquidazione, il discorso delle lotterie così è un senza senso. Bravo Maurizio, perché se vai a vedere la composizione percentuale, anche quella che dà la Guardia di Finanza e le stime che fa l'Agenzia delle Entrate, la componente delle società di capitali è quella molto più elevata sul recupero da fare. Io ringrazio, è stata una trasmissione breve, Giuseppe Bortolussi, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.